Allora, intanto buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati. Le nostre giornate scorrono così all'insegna anche delle iniziative che organizziamo nella fascia serale per ritrovarci e avere di nuovo un rapporto concreto, fisico anche con le autrici, gli autori. E con piacere abbiamo potuto ritrovare Silvia Spada, Anna Pintarelli, e questa sera è anche con noi la nostra amica Marzia Bonfanti, che ci presenta un nuovo libro illustrato da Anna Pintarelli, come vedete, Storie per Ursus. Molto volentieri abbiamo accettato questo invito da parte di Silvia Spada, che conosciamo da tanto tempo, è stata una cara collega anche ai tempi del museo, lasciamelo dire, ecco. È una persona che però conosco per la verità ancora da prima, perché, e qui faccio outing veramente stasera, quando facevo il liceo c'era stata una mostra al Museo Civico, Klimt, Kokoschka e Schiele, te li ricordi questo trio? E tu ci hai fatto una visita guidata strabiliante, cioè io non me la dimenticherò più questa cosa della Silvia Spada, veramente. Da quel momento mi ha fatto innamorare di tutto quello che era museo, biblioteca, archivi, arte, tutto. Potevi dirmelo prima, Valeria, mi hai lasciato fino adesso con dubbi. E in questa ignoranza sono molto contenta. Non volevo dirlo, perché proprio anche l'altro giorno ci pensavo. Ci sono, no, queste figure tema che arrivano nella tua vita, che incontri così, e pian piano le ritrovi, e quindi sono molto contenta. E questa biblioteca appunto opera per promuovere la lettura, per promuovere anche gli incontri, aprire degli orizzonti. Il rapporto con l'orso è un rapporto molto particolare, ma lo scopriremo da un'altra, in un'altra luce questa sera, grazie a voi tre e questi nostri ospiti, che ringrazio ancora e ringrazio voi, segnalandovi poi anche delle cartoline dove noi raccontiamo e vi illustriamo le attività che facciamo praticamente quasi ogni giorno in questa fascia, che possono forse incontrare anche i vostri gusti e i vostri interessi. Quindi mi taccio e vi lascio la parola e ringrazio ancora. Buona grazie. Serata. Grazie. Allora inizio io, però non è che sia molto comodo su questo. Lasciate che mi alzi, dai, va là per favore, perché sì, appunto, perché qui veramente sarei proprio dietro a una selva. Io sono Marzia Bonfanti, qualcuno mi conosce da lunga data anche, vabbè, comunque. Presento molto molto volentieri il libro di Storie per Ursus, anche perché Silvia mi ha dato l'opportunità di una piccola collaborazione, cioè dire, l'ho aiutata a correggere un po' di bozze. È la mia editor. Ma sì! Voglio dire, avere una editor non è una roba proprio... No, vabbè, insomma, non è che ci sia molto da fare, però mi do da fare. E dopo che io avevo visto all'inizio solamente il testo, ovviamente, e quando poi molto gentilmente mi ha dato una copia di Ursus, ho visto pure le immagini. Non che io non conoscessi le immagini appunto di Anna, però qui in particolare mi è scattato qualche cosa, poi vi dirò. E ho detto, ma per Bacco, a me piacerebbe anche fare qualche cosa. Di recente Silvia mi fa, ma ci sarebbe da presentare Ursus. Allora, qui è stato come invitare l'orso alle pere, si dice, no? Una cosa che mi mandava in solucaro, la volevo fare, ed eccomi qui con grande, grande gioia. E aspetta, questi non li tocco il mio. Questo libro presenta Storie per Ursus. Questo già è un punto sul quale fare una riflessione. Non è la storia di Ursus, ma sono le raccolte di vari campi in cui noi possiamo incontrare l'orso, il campo della storia, con accenni particolari alla preistoria, all'arte, alla mitologia, alla bioetica, eccetera, eccetera. E quindi qui è una traccia, diciamo così, di lettura. L'altra, ce ne sono altre due. Uno che riguarda il linguaggio delle immagini, che vi dicevo che mi aveva colpito moltissimo, e l'altro naturalmente è il linguaggio della narrazione. E ho trovato come le immagini e la narrazione si compenetrassero profondamente. Le immagini infatti vengono a supportare la narrazione, giustamente, perché come dice Alice nel Paese delle Meraviglie, ma che razza di libro è uno che non ha neanche un'immagine? Ecco, è qui lo abbiamo proprio. Allora, io mi sono guardata queste immagini molto belle, che dicevo che mi hanno affascinato, e me le sono fatte spiegare letteralmente da Anna, perché indubbiamente rappresentano, almeno per me, una novità anche nella lettura proprio dell'immagine. E sono apparentemente semplici, in realtà non c'è una grande, no? C'è una grande ricerca dietro, no? Non è che sia un'immaginetta buttata lì così, o delle immagini, delle illustrazioni dei libri per infanzia. C'è molto di più dietro. C'è anche un pensiero importante di Bruno Munari, che dice che l'immagine deve essere semplificata perché sia meglio accettata mi correggerai tu successivamente, da un bambino, no? E poi non avere troppi particolari permette anche di sviluppare una maggiore capacità interpretativa, perché bisogna stimolare il bimbo, ma anche l'adulto che lo accompagna nella lettura, a fare delle riflessioni. Quindi l'immagine non è lì solo così come semplice illustrazione. Un'altra cosa che mi spiegava Anna, e questa veramente è l'esperta, si parte in queste immagini, si parte dal cerchio, proprio come suggerisce in un certo qual senso Bruno Munari, come immagine a parte della perfezione, però è anche molto, molto mobile nella sua espressione. E noi qui abbiamo effettivamente questi begli orsi con gli occhi tondi, grandi, ma non è solo dell'orso l'occhio grande e rotondo, no? È anche degli altri personaggi, ed è appunto attraverso queste espressioni, proprio perché è mobile il movimento del cerchio, che ci permettono di capire in quel momento orsi e uomini che cosa pensano, quali sono i loro sentimenti. Dunque, dicevo che è la potenza dell'immagine risiede proprio nella sua capacità narrativa. E adesso vi faccio vedere un paio di immagini che io ho ricavato per quello che vi dicevo. Allora, ve lo faccio vedere qui in grande, no, indietro. Ecco, ma non ci vuole stare. Ecco, Vacanza con l'orso, che io ho messo accanto a Storie per Urso. Non so chi conosce Vacanze con l'orso, ma è stato il mio primo libro che io ho letto, che mi aveva portato il mio papà da un suo viaggio. È un'edizione del 57, E, molto interessante per allora, perché si parla, c'è questo contatto dei bimbi, si parla della natura, si parla di un contatto, dicevo appunto, con gli animali. È un racconto degli anni miei, dove c'era molta anche molto bon ton, sia nella rappresentazione, sia anche nella scrittura. E anche queste immagini sono particolarmente leziose. Tra parentesi, la disegnatrice, è una tal Maria Pia Franzoni Tomba, era stata anche ai suoi anni, fate conto che gente che è nata nel primo decennio del Novecento, no? Era stata anche così tacciata di aver copiato da altri disegnatori molto, molto illustri in un ambito però europeo, non locale. Queste sono proprio due autrici italiane. E sì, poi c'è questa Yolanda Colombini Monti, autrice delle varie storie. Questo non è l'unico libro, c'è una serie, ne ha scritti 200. E questa Maria Pia, vi dicevo che era la sua illustratrice, ne ha illustrati altrettanto ed è l'autrice, voi lo conoscete senz'altro, di tutte quelle cartoline dove sono rappresentati proprio questi bambinetti un po' cicciottelli, contenti. Sono le rappresentazioni anche di dei piccoletti travestiti da soldati che vanno e le mogli che aspettano, o le fidanzate meglio dire, che li aspettano. Ma c'è una produzione veramente fortissima. Ma perché l'ho riportato a questo? Proprio per far vedere la trasformazione della figura. Perché in queste storie io mi auguro che ponessero al centro l'apprendimento del bambino. Ma io so che me le leggevo così, ma per gusto, no? Crescendo si capisce cosa c'è dietro a una narrazione anche per bambini. E l'immagine che ne dà, il disegno che ne dà Anna, direi che è molto più adeguato ai nostri tempi. Beh, sicuramente ai nostri tempi, ma anche a quello che è il messaggio veicolato. Tra parentesi, questi cambi, adesso mi addentro in un campo che non mi appartiene in maniera particolare, però questo tipo di disegno, con una magari un'evoluzione propugnata anche da Munari, si attesta intorno agli anni 60-70. Ma non è solo Bruno Munari che si interessa di letteratura per l'infanzia. C'è Totti Scialoia, per esempio, Altani, il papà della Pimpa. Ecco, e questi semplificano l'immagine, proprio perché l'immagine deve essere recepita bene dal bimbo, con non sono fortemente caratterizzate, no? Anzi, viene tolta tutta quella parte, diciamo così, di disegno che caratterizza fortemente l'immagine, per esempio l'orso con tutto quel pelo. Poi lo vedremo anche in qualche altra immagine che mi sono permessa di mettere. E si ritorna a, ed invece ci si viene presentata un'immagine come questa, un disegno come questo di Ursus, che lascia molto più spazio all'interpretazione. Guarda un po', questo è sensibilissimo. Ecco, questa è, l'ho ricavata dal libro delle nostre due amiche, l'orso che mangia il miele, no? Mentre al tempo, appunto, questa immagine, che poi addirittura non è del 57, addirittura del 47 la vera immagine, questa era una riedizione, noi abbiamo un orso che è ben molto antropomorfo, si muove se non altro come un uomo, una persona, e tiene tra le mani un frutto, presumo una mela, in mezzo alla neve. Ecco, c'è il momento della fantasia. E a proposito di eccone un'altra, sempre ricavata dal nostro libro, in questo caso riguarda l'episodio della fine della caccia, della fine degli orsi, di conseguenza alla fine della caccia, questo povero orso che piange per un motivo reale. Questo, di nuovo, il nostro orsetto che se la piange, però fa anche ciao ciao col pezzettino di diabete, lì un rametto di diabete, e saluta questi due amici, questi due fratelli, no? Sergio e Doretta, per la cronaca, che avevano trascorso le vacanze in montagna durante appunto il periodo di sospensione scolastica. Come vedete, c'è ben altro, ma benché anche questa storia sia edificante, perché tutto sommato l'ambiente della natura, dell'animale che deve essere preservato, eccetera, eccetera, però qui è una favola, quindi una favola che educa. Nel testo di Silvia e di Anna l'orso è fortemente caratterizzato ed ha una sua posizione nel campo, insomma, della biologia e via dicendo. Semplificazione delle immagini, dicevo, che è una prima lettura per sottolineare l'apprendimento da parte del lettore, in questo caso bambino ma anche adulto, a cui fa riscontro il linguaggio. Anche questo è quello di Silvia, è un linguaggio che è andato un po' per sottrazione, un linguaggio che viene semplificato come le immagini, ma non è banalizzato, così come non sono banali le immagini, anche il linguaggio non è banale. E se lo può permettere solamente una persona che padroneggia la materia, quello di rendere più semplici le frasi, di scegliere una parola piuttosto che un'altra, perché la comunicazione sia efficace, e vabbè, qui ci vuole proprio qualcuno che ci sappia fare. Silvia poi è un'ottima comunicatrice, si diceva prima, no? Perché sa trattare, sa l'argomento, come dicevo prima, lo padroneggia e lo sa di conseguenza trasmettere a vari livelli. Perché nel caso così della mostra si è espressa al massimo in questo libro, altrettanto proprio per facilitare e facilitare la comprensione, scendere a più livelli, tanto è vero che questo testo all'ultima copertina è dichiarato che è per bambini tra i 6 e i 10 anni, però stupisce tantissimo anche gli adulti, proprio per la portata della narrazione, delle storie, si diceva. E io mi permetto di storie, di ricordarne due in particolare, no? Tanto anche perché possono presentare una loro complessità, però che è stata fatta passare con grande leggerezza. E intanto Silvia introduce l'oggetto, insomma, di indagine, l'orso, e poi attraverso la domanda e la risposta, ecco, ne evidenzia le caratteristiche da, dice che cos'è l'animale, dove vive, perché, insomma, di che cosa si ciba, eccetera, eccetera. No? Perché l'orso e l'uomo per molti anni, direi per secoli, hanno convissuto e sono stati interdipendenti l'uno dall'altro. L'interdipendenza la si vede bene nel libro, per gli episodi riportati. Ma comunque, torniamo all'utilizzo che fa Silvia per spiegarci l'orso nell'arte, e va a prendere un paio di affreschi, uno al Castello del Buon Consiglio, dove viene rappresentata una vicenda di caccia, e l'altro a Castelroncolo, dove si vede l'orso cacciato che poi viene scuoiato. In tutto questo, che cosa dice? Ma guardate che non è un passant così tanto per dire, perché è messo lì al punto giusto, perché queste sono affreschi che appartengono allo stile gotico internazionale. Allora c'è la parte sicuramente più semplificativa, no, della narrazione, l'altra è il linguaggio specifico dello storico dell'arte, in questo caso, no? Un'altra storia che lei racconta, anche questa l'ho trovata molto molto particolare, è quella di San Romedio e dell'orso. Nelle storie ci sono tanti racconti del genere, no? Cioè, di un qualcuno che assoggetta l'orso, lo elegge a sua cavalcatura, oppure lo fa lavorare, bla bla. Ma in questo caso San Romedio, la figura di San Romedio e l'orso, sta a significare la religione cristiana, che ha saputo far sua e quelli che erano i miti delle religioni preistoriche, in particolare nordiche, le ha recepite, diciamo, e trasformate per renderle attuali. E questo che cosa ci fa capire? Insomma, il passaggio dalla religione sia alla religione cristiana, che però non ha dimenticato i miti e le tradizioni dei tempi andati, no? E non dimentica di dare uno sguardo al cielo parlando dell'orsa maggiore e dell'orsa minore, perché è ben singolare questo aspetto, no? E questo lo presenta come curiosità, io l'ho visto però intanto è una notizia sul mito. Riprende il mito greco della bellissima ninfa Callisto, che è stata così catturata da Zeus. Giunone si era arrabbiata, era almeno, manteniamo i nomi, si era arrabbiata per questa infedeltà del marito, l'aveva uccisa, e poi per innalzarla viene portata nel cielo e così viene dato il nome a questa alla costellazione dell'orsa. Quindi, come vedete, ci sono tantissime storie di Ursus che ci permettono di recuperare molte molte informazioni. E si diceva appunto di queste interazioni dei due codici, mi ripeto, ma ho piacere di farlo anche se vi annoio. perché l'integrazione, appunto, dicevo, dei due codici, linguaggio e immagine, impegna maggiormente le capacità cognitive e le sviluppa anche. Per cui, quando noi ci troviamo di fronte a questo libro che racconta la storia di Ursus, vogliamo vedere, o almeno ci piacerebbe vedere, adulti e bambini insieme, perché vedete, ecco, adesso qui è un riferimento personale a mio nipotino e al suo papà, e lo abbiamo titolato un libro dedicato ai bambini che stupirà anche gli adulti, perché è importante questa, io l'ho trovata insignificativa anche questa foto, dopo però aver fatto tutta questa analisi di Ursus, perché l'incontro tra testo e figura potenzia l'elaborazione della narrazione e quindi attiva un processo di interpretazione continua e crea quindi un varco per l'incontro e l'intervento del lettore o dei lettori. Ecco, io in questo libro ho letto queste cose. Forse il taglio è un po' scolastico, no? Perché è l'insegnante di lettere che è intervenuta in questo caso, però mi pare che possa calzare perfettamente a un testo del genere. E io adesso mi fermo qua e cedo la parola a Silvia e a Anna. Vuoi, Anna, che ti faccia una domanda che mi piacerebbe tanto? Sì, sì, prego. Ecco, siccome io so di avere pasticciato un pochino sulla elaborazione delle tue immagini, vorresti parlarcene un pochino con più autorità? Perché io proprio non ce l'ho avuta in questo caso. Innanzitutto, un problema di un libro di questo tipo era il target a cui ci rivolgevamo, quindi che fascia di età noi volevamo andare a toccare. È un libro che è adatto sia a dei bambini più piccoli, accompagnati chiaramente dai genitori, essendo un libro così didattico, ma si presta a una lettura anche autonoma da parte di bambini più grandi. Ovviamente un bambino più grande, quando si tratta di immagini, ha delle esigenze diverse rispetto a un bambino più piccolo. Ma siccome per i più piccolini l'apparato visivo è fondamentale per farli seguire la storia, li ho un po', diciamo così, privilegiati, pur consapevole che in ogni caso l'immagine poteva risultare accattivante anche per un bambino più grande, che poi poteva ottenere più interesse invece in quello che leggeva. E l'immagine destinata a un bambino più piccolo chiaramente deve puntare a una semplificazione, come dicevi più tu, non gli si può dare troppi elementi, sia per un discorso di continuare a lavorare con la sua immaginazione, ma in generale per una semplicità e anche per un'immedesimazione nei personaggi e delle storie che gli si vuole raccontare, perché come abbiamo detto più volte l'orso è un animale molto, molto simile all'uomo. Tramite il teddy bear è stato ancora di più umanizzato e gli è dato questa forma antropomorfa ancora maggiormente di quanto sia stato fatto con altri animali o pupazzi nel corso di tutta quanta la storia. Quindi era carino che questa storia per Ursus, quindi quasi come noi ci rivolgiamo quasi a questo orsetto, ma allo stesso tempo noi ci stiamo rivolgendo soprattutto al bambino. Quindi è una specie di gioco di orsetto bambino, identificazione e meditazione. E questo lo si poteva fare soprattutto con delle forme semplici e soprattutto con elementi essenziali, di cui uno degli elementi essenziali, come si è notato, come ho fatto notare anche prima con delle domande che mi sono state rivolte, quello che spicca maggiormente sono gli occhi. Gli occhi sono tondi, sono occhi grandi, immensi, perché io ho una formazione non di illustratrice in realtà, ma io vengo dal campo del fumetto. E nel campo del fumetto non è un caso che gli occhi hanno una grande importanza, sono fatti generalmente un po' più grandi, per dare più possibilità di raffigurare all'interno di loro più emozioni, perché l'emozione non deve essere soltanto scritta, ma deve essere subito immediatamente visibile. per molti anni i fumetti giapponesi, i cartoni giapponesi sono presi in giro perché, ah, ma perché fanno gli occhi grandi, sono gelosi di noi occidentali? No, non è stato assolutamente quello, perché l'ingrandimento degli occhi viene in realtà dato già dalle forme di teatro, delle maschere che loro avevano, e venivano date per trasmettere più forte le emozioni dei personaggi, e nel caso dei disegni, dei fumetti, per creare un'identificazione. E questo viene anche attraverso la semplificazione, perché più il personaggio è semplice, più io mi ci posso rivedere. Certo. Per questo Topolino ha funzionato così tanto. Topolino è fatto di forme semplici. Io mi posso rivedere Topolino. Topolino non sta raccontando la storia di un topo. Topolino sta raccontando la storia di uno chiunque che potrebbe identificarsi con lui, con Paperino, con chiunque altro. E lo riesce a fare molto meglio di quanto non lo possa fare un Tex, perché un Tex è dettagliato e realistico. Quando leggiamo la storia di Tex, noi stiamo leggendo di un'altra persona, non stiamo leggendo di noi. Quando leggiamo di un Topolino e di un Paperino, noi ridiamo con loro, ci divertiamo perché ci rivediamo in loro. Ecco. Questo è molto bello da fare anche nei libri per bambini, in maniera diversa, chiaramente, per accompagnare all'interno delle storie che vengono raccontate. Perfetto, grazie. Perché oltre ad averle insegnate a me queste cose, e adesso le abbiamo messe in comune. Mentre vuoi il cambio di segno? Sì, perfetto. No, io devo dire, molto interessante, potevate anche continuare. Perché, volevo ringraziare la biblioteca provinciale Claudio Augusto e Valeria per avermi accolto qui, perché mi fa piacere particolarmente presentare questo libro e questo argomento a Bolzano, perché praticamente siamo andati dappertutto ma ancora non eravamo arrivati lì. Poi volevo ringraziare Marzia perché è molto divertente. Io ho fatto non so quante presentazioni adesso, 4-5, non so, e ogni volta c'era una persona diversa per fare l'introduzione, no? Per cui sono stati dati dei tagli di lettura veramente molto differenti e ho trovato questo molto interessante, piacevole, ho scoperto delle cose che non sapevo che sapevo fare, grazie, per cui la mia autostima è cresciuta tantissimo stasera, però effettivamente tante cose che hai detto, devo dire, proprio mi ritrovo. Tra cui una molto importante. Allora, io non sono una scrittrice per bambini, ma mi sono messa a fare queste cose partendo dagli studi storico-artistici che ho fatto negli anni, perché mi interessa molto la divulgazione. E una cosa che Marzia ha detto, che è veramente molto giusta, per fare libri per bambini bisogna avere delle conoscenze molto approfondite, perché altrimenti non è possibile estrapolare un discorso lineare, un discorso comprensibile, se non si sa appunto togliere tutto quello che è necessario per arrivare al punto. E effettivamente questa è una cosa che è molto impegnativa. È difficile ovviamente anche per me, perché appunto non è che sono del mestiere, mi sono improvvisata qualche anno fa per il piacere di fare queste cose. Per esempio, il libro che abbiamo fatto, uno dei precedenti a questo su Sanno Medio, è stato un libro su cui ho dovuto studiare tantissimo, anche perché non c'erano effettivamente degli studi molto ben strutturati sul santuario, è stato difficilissimo. Questo invece è, diciamo, una cosa che avviene successiva alla mostra che abbiamo fatto nel 2019 per il comune di Cles per l'assessorile, che era proprio dedicata all'orso, partendo con un taglio ben specifico, che è il taglio poi che si ritrova anche nel libretto per bambini. Cioè, io non ho affrontato il problema dell'orso naturale, ma ho trattato il problema del rapporto tra uomo e orso, che non è un rapporto neutro, è un rapporto molto condizionato dal punto di vista culturale. Cioè, per noi l'orso noi non ci rapportiamo con l'orso come con una marmotta, un pettirosso, un delfino, così, un animale di vario tipo. Noi ci rapportiamo con l'orso secondo una serie di filtri culturali che nascono ancora da millenni fa. E il nostro rapporto non è un rapporto, posso dire, scientifico, è appunto un rapporto culturale che ci fa attribuire all'orso tutta una serie di comportamenti, sentimenti, modi di fare che non hanno nulla a che vedere con la bestia, ma hanno tutto da vedere con noi. Questa è stata la traccia del lavoro che ho fatto per CLES sulla base di studi di altri autori, ovviamente non me lo sono inventato io. Diciamo che il taglio innovativo è stato il fatto di aver fatto una ricerca sul territorio del Trentino e dell'Alto Adige, cioè averla portata praticamente a un significato di tipo locale. E per cui io vi mostrerò abbastanza, in maniera spero abbastanza sintetica, quello che è diciamo lo zoccolo duro da cui deriva poi il libro per bambini, che vuole essere di tipo formativo, cioè vuole fare conoscere una realtà molto spesso appunto misconosciuta, per permettere non solo una crescita personale ma anche un rapporto più sereno, più armonioso con la natura che ci circonda e magari un pochino più consapevole, perché in realtà appunto l'orso viene trattato di sentimento dall'uomo, no? Proprio è una cosa da sentimento e non da raziocinio. Allora vediamo un attimo di cosa stiamo parlando. Allora, prima cosa, si somigliano, cioè se uno dei due l'ho sposato, lo sapete, uno dei due, chi indovina alla fine? Quello a destra, spero. No, allora, si somigliano, perché questo? Perché l'orso, e sto parlando della preistoria, insomma nell'emisfero settentrionale, prima che si conoscessero le scimmie, era l'animale che era considerato più simile all'uomo. Poi ho messo questa foto, mi faceva un po' ridere, però in effetti non è che sono tanto diversi, se guardando bene, no? Cioè, non è che sono tanto diversi. In cosa si somiglia l'uomo con l'orso? Innanzitutto l'orso è un plantigrado, cioè un animale che cammina eretto appoggiando tutta la pianta del piede, non solo la parte iniziale come fanno praticamente quasi tutti gli animali, e pertanto può camminare eretto su due zampe, non è che ci deve stare solo un attimo e poi ricrolla giù, è un suo modo di procedere. Poi è onnivoro, perché l'orso non è prevalentemente carnivoro, mangia carne quando si sveglia dall'ibernazione e prima di andare in letargo, perché deve fare il grasso che poi consumerà, però poi mangia pesce, mangia bacche, mangia insetti, gli piacciono molto le formiche, mangia il miele, piuttosto goloso appunto di miele, per cui tutta una serie di cose di cui si approvvigiona durante la primavera e l'estate. Poi c'è un'altra somiglianza, è abbastanza curiosa, somiglianza, in questo caso diciamo più anedotico. L'orso è l'unico animale che riesce a scendere una scala a pioli col muso rivolto verso la scala, come fa l'uomo, non c'è nessun altro animale che riesce a fare questo. E poi tre altre cose che portano alla somiglianza: l'orsa è una madre molto attenta all'educazione dei suoi piccoli, li tiene con sé circa un anno e mezzo, per cui un periodo piuttosto lungo, e proprio li insegna quali sono i pericoli, quali sono i comportamenti, se si comportano male gli scappellotti con la zampa, eccetera, e così via. Per cui ha un sistema educativo effettivamente simile al nostro. Questa somiglianza ha portato sì che nella preistoria l'orso, nelle zone appunto, ripeto, sempre dell'emisfero settentrionale, venisse considerato una specie di divinità, per cui un personaggio estremamente importante, ma nello stesso tempo venisse considerato un po' un alter ego dell'uomo, per cui un modo molto comodo per attribuire a questo animale così somigliante tutta una serie di particolarità che invece sono totalmente umane e che non hanno nulla a che vedere con l'orso stesso. E diceva prima Marzia, adesso come possiamo capire, come possiamo arrivare a capire quali sono questi filtri culturali, no? Lo possiamo arrivare a comprendere attraverso testimonianze artistiche, testimonianze letterarie che ci sono a partire dal Medioevo, ovviamente, dove le cose diventano abbastanza complesse e interessanti. E le raffigurazioni più comuni dell'orso si trovano sicuramente, sono sicuramente quelle della caccia all'orso. Qui abbiamo appunto il mese di novembre a Torre Aquila, nel Castello del Buon Consiglio a Trento, di questo artista Venceslao da Boemia, che era appunto artista gotico internazionale, pertanto molto attento ai dettagli della natura, molto attento alla raffigurazione precisa delle situazioni, che rappresenta la caccia all'orsa che voi vedete nella parte in alto. Ed è sicuramente una scena che lui conosceva, perché rappresenta la caccia in tutti i suoi dettagli. In genere l'orso veniva cacciato tramite la battuta di caccia, cioè c'erano dei battitori che lo facevano, lo spaventavano, andavano nei posti dove più o meno si sapeva che viveva, lo spaventavano, lo facevano andare verso un posto ben preciso dove poi c'erano i cacciatori che con la lancia lo ferivano, lo uccidevano, accompagnati anche aiutati dai cani, che erano dei cani, dei molossidi fatti apposta per la caccia all'orso, spesso muniti proprio di questi collari con le punte, insomma, che per facilitare appunto l'assalto. Ma dicevo, questa è sicuramente una scena che il pittore conosceva, perché vediamo l'orsa che spinge avanti i suoi cuccioli e poi si volta per controllare dove sono praticamente i cacciatori, per cui una attenzione al dato naturalistico qui molto precisa. Mentre a Castelroncolo la raffigurazione è già appunto ricordata da Marzia, è di particolare interesse perché è l'unica raffigurazione che noi conosciamo della spartizione dell'orso cacciato, perché l'orso poteva essere cacciato liberamente, a differenza di altri animali che in genere la caccia era riservata al nobile, al re, erano molto protette, anche con gravi sanzioni per chi appunto osava cacciare animali che invece doveva essere prerogativa regale, e l'orso era considerato dannoso, per cui poteva essere cacciato da tutti. Al momento che veniva ucciso, qui vedete che è scuoiato, cioè la parte sotto è la sua pelliccia praticamente che è stata tolta, e veniva spartito secondo un ordine ben preciso. L'interiore venivano date ai cani, che infatti qui sono in attesa di ricevere appunto il loro compenso. Le parti, la coscia, adesso non si vede molto bene perché nella parte così di sguincio della finestra e della parete veniva data ai battitori, ma la testa e le zampe davanti, che rappresentavano la potenza dell'orso, era obbligatorio darle sempre al re, al nobile, al feudatario che governava sulla zona. Perché? Perché rappresentavano appunto la potenza dell'animale, e chi poteva averle assorbiva in se stesso questo grosso potere, questa grande forza. Tanto è vero che qui abbiamo lo stemma dei Fintler, che erano appunto i proprietari di Castelroncolo, dove vedete che ci sono proprio le zampe anteriori della bestia, che rappresentano proprio, che hanno proprio precisamente questo significato. Per cui diciamo, qui siamo ancora nella fase diciamo, in cui l'orso è visto appunto con questo significato abbastanza ancora positivo. Ma cosa succede? Essendo una divinità di tipo pagano, quando il cristianesimo incomincia a fare la propria missione di evangelizzazione, cerca di spodestare questo animale così importante, così significativo e anche così legato alle popolazioni che abitavano appunto l'Europa, cercando di affidargli tutta una serie di ruoli negativi, in modo da, diciamo, toglierlo dal cuore, dalla mente delle persone. giustamente diceva Marzia che molto spesso questa cristianizzazione avviene diciamo sovrapponendo santi a feste, che feste rituali molto sentite, in modo che non ci fosse uno stacco netto ma ci fosse una sorta di continuità. Però con l'orso questo non succede, e l'orso viene poi veramente nel corso dei secoli tacciato di ogni sorta di negatività per togliergli questo ruolo di potere. Questo è praticamente la tesi che Michel Pastoureau scrive nel suo libro molto interessante, che appunto sull'orso, storia di un re decaduto, e fa questo discorso praticamente con esempi che si possono trovare in tutta Europa. Allora, l'orso di che cosa lo accusa l'uomo? Allora, la prima cosa è nasce da una notizia che Plinio il Vecchio, riprendendo e probabilmente non comprendendo bene Aristotele, dà come assolutamente vera, cioè che l'orso e l'uomo si accoppiano nella stessa maniera. E questa notizia viene presa per buona, come tantissime altre storie di Plinio, insomma, che un po' se le inventava, e fino all'illuminismo, fino a quando non c'è proprio il pensiero positivista, insomma, che fa una revisione di quello che è il modo di intendere appunto la natura. E era considerato appunto, in questo modo appunto si accoppiava come gli uomini, e pertanto viene considerato subito un antagonista, cioè rubava le donne, le portava nel bosco, aveva con loro, e molto spesso anche queste donne partorivano, in genere anche personaggi molto... molto forti, potenti, eroici. Per esempio Artù, che ha nel nome stesso diciamo la radice greca Artus, che vuol dire appunto orso, Artù si mormora fosse appunto figlio di un orso e di una donna praticamente rapita. Ma vediamo che questa idea di orso lussurioso viene ripresa sempre a Torre Aquila, sempre dal pittore Venceslao da Poemia, nel mese di maggio. Il mese di maggio è l'unico mese in cui nel ciclo di Torre Aquila viene rappresentato, non vengono rappresentati i lavori del campi, ma semplicemente l'amore. È il mese dell'amore, il mese della primavera, in cui appunto ci si risveglia. Tutti quanti si amano e si vogliono bene, e ci sono una serie di coppie che passeggiano in questi meravigliosi giardini corteggiandosi, parlando, insomma è una rappresentazione abbastanza idilliaca. C'è un unico momento in cui le cose sono un pochino differenti, perché voi vedete qui abbiamo una coppia, quella vestita in rosso e in verde, poi un'altra coppia, però c'è anche una fanciulla che non ha nessun compagno e sembra stia scappando e viene praticamente trattenuta. L'identificazione di questa scena era veramente molto problematica, perché non si capiva. Si guardava poi nel folto della foresta, nel bosco, vedete che c'è un uomo con una lancia che sta per colpire una bestia tutta pelosa, insomma. E con ogni probabilità si tratta proprio dell'orso che aveva tentato di rapire la fanciulla e che viene invece affrontato dal cavaliere e poi ucciso. Per cui qui una rappresentazione in un contesto di un certo tipo, cioè estremamente idilliaco, però l'orso viene qui raffigurato con questo significato assolutamente negativo di essere lussurioso. E infatti dal Medioevo, diciamo, in poi la rappresentazione dell'orso come animale appunto erotico, chiamiamolo così, comunque connotato negativamente per questo aspetto, si ripete molte volte. Per esempio qui abbiamo un messale della metà del 400 dove abbiamo l'orso che suona la cornamusa. La cornamusa come strumento è una caratterizzazione di tipo sessuale, e l'orso che suona della cornamusa viene proprio rappresentato così per indicare questa sua particolarità. E che la Chiesa volesse sbarazzarsi di questo imbarazzante personaggio lo dimostra molto bene questo messale di Augustin Poch, che è della prima metà del Cinquecento, di un artista eccezionale tedesco, un miniatore tedesco di cui non si conosce il nome, e dove vedete nella parte bassa un orso che è tenuto al guinzaglio, trascinato da un puttino, sopra c'è un altro puttino che suona la tromba, e vedete che l'orso praticamente è diciamo legato e ridotto all'impotenza. Ma perché questa è una delle immagini proprio importanti per capire questo discorso? Perché la raffigurazione non è una scenetta di genere messa a margine per completare, per far bello, per fare una decorazione, ma si trova esattamente al di sotto della raffigurazione della Pentecoste, che è la festa di istituzione della Chiesa come apparato di tipo gerarchico, istituzionale, insomma. Ecco. E allora, aver messo l'orso legato e battuto, vinto addirittura dai puttini, cioè proprio ridotto alla totale impotenza, sotto la raffigurazione del trionfo della Chiesa, non può essere considerato un caso, per cui è una delle immagini veramente molto interessanti. Qui siamo di nuovo a San Romedio, i santi con l'orso, cioè i santi che addomesticano l'orso e lo rendono praticamente, lo fanno a proprio servizio, lo mettono al proprio servizio, cavalcandolo, appunto facendogli arare i campi, trasportare i bagagli, eccetera, e così via, sono veramente diffusissimi in tutto l'arco alpino. Noi conosciamo San Romedio perché è qui locale, anche perché ha un santuario di una bellezza eccezionale, ma in realtà ce ne sono tantissimi altri, addirittura, cioè c'è San Lugano, che è anche qui è, diciamo, anche qui venerato, che ha una storia praticamente simile. C'è San Corbignano, anche qui un santo locale, per cui ne abbiamo tre addirittura che stanno tra Trentino e Alto Adige, ma poi ce ne sono in tutto l'arco alpino. Localmente c'è un santo che ha battuto in qualche maniera l'orso. Anche questo non può essere considerato un caso, ma rientra in questo discorso che diventa simbolico, ma nello stesso tempo rappresentativo di una realtà in cui c'è la Chiesa che praticamente cerca di cerca appunto di liberarsi del paganesimo anche attraverso una forte immaginario di tipo simbolico e rappresentativo. Questo è un altro, siccome è troppo bello questo qui, ed è vero, insomma, non posso fare a meno di metterlo. Che l'orso sia un personaggio negativo lo vediamo anche in questa raffigurazione di Cesare Ripa dell'Iconologia, un libro scritto verso la fine del Cinquecento e che poi ha tantissime edizioni perché ha un grandissimo successo, e che è una specie di prontuario per letterati, poeti e pittori, in cui il Cesare Ripa dà le indicazioni sul modo corretto di rappresentare una serie di figure simboliche, e l'orso appare in tre casi, mi sembra, sempre connotato negativamente. Qui è un attributo della malvagità, per vedere come effettivamente questo discorso praticamente si protrae nel tempo. Una storia completamente diversa invece è quella raffigurata in questo affresco, che è della metà del 400, si trova a Castelpietra e all'interno di una sala molto interessante, molto, molto bella, anche con tantissimi risvolti di vario tipo, insomma, dal punto di vista iconografico. Abbiamo questa rappresentazione che è una tipica rappresentazione di una finta lotta tra uomo e orso. Finta lotta perché? Perché l'orso veniva portato nelle fiere, nei vari paesi, e veniva addestrato per fare degli esercizi Ma il clou, la cosa che appassionava praticamente tutti al momento finale della rappresentazione, era proprio questa lotta, per cui l'orso era addestrato a lottare con il suo domatore, poi il domatore lo uccideva, l'orso cadeva a terra, sembrava morto, e praticamente questo era il clou della festa, della fiera. Abbiamo tante notizie di questi orsi addestrati. Le prime notizie ce le abbiamo già nel 500 in un libro di Olao Magno, che era il vescovo di Uppsala e studioso degli usi e costumi delle popolazioni. Infatti scrive un libro che si intitola Usi e costumi delle gente del nord, in cui ci racconta come fossero i lituani. E la popolazione che nel 500 era praticamente addetta alla doma degli orsi e al loro, diciamo, a portarli in giro per il divertimento del pubblico, sempre con questa lotta praticamente tra uomo e orso. E ce ne dà una descrizione molto, molto precisa su come bisognava fare. Bisognava prendere l'orso da cucciolo, legarlo, metterlo in una tana, legato e così via. Una volta al giorno un personaggio che doveva essere vestito sempre uguale gli portava da mangiare, sempre uguale perché si abituasse a questa figura. Quando poi l'orso era meno timoroso incominciavano gli esercizi e poi appunto veniva fatta questa lotta con il domatore, in modo che alla fine ci fosse questa specie di, diciamo, elemento ancora simbolico dell'orso che muore e del cacciatore, dell'uomo praticamente che lo ha ridotto all'impotenza. Se nel 500 però i domatori di orsi erano lituani, dal 700 si specializzano alcuni abitanti di paesi molto molto poveri dell'Appennino Parmense che per, diciamo, cercare di arrotondare quello che era un bilancio veramente da fame, si specializzano loro in questo tipo di addestramento. L'orso in Appennino scompare già nel 700, non c'è più, per cui andavano a prendere gli orsi in Slovenia, dove invece ce ne sono sempre tanti, e li addestravano in maniera sicuramente brutale, insomma, comunque non era proprio una passeggiata, e poi li portavano in giro per le fiere. Sono testimoniati questi orsanti parmensi fino in Portogallo, Nord Europa, e poi anche la corte del sultano, dove si racconta, non si sa se verità leggenda, che il sultano gradisse talmente tanto questo spettacolo da acquistare tutto, cioè uomini, attrezzature, orsi, tutto quanto, per poterlo avere appunto alla sua stregua, cioè praticamente poterlo vedere ogni volta che voleva. Questo l'ho messo dentro per le persone della mia età, per cui qua ci siamo abbastanza, che si ricordano forse Carosello e si ricordano Tacabanda, e non so se anche voi come me per anni si è chiesto cosa cavolo fosse sto Tacabanda. Questo Tacabanda era praticamente il messaggero che precedeva l'arrivo degli orsanti, con questo cappello, con questi sonagli, e poi aveva l'organetto, aveva la gran cassa, eccetera, e così via, faceva pubblicità nei vari paesi dicendo che appunto il giorno dopo sarebbe arrivata la compagnia degli orsanti. Così ci siamo tolti anche lo sfizio del Tacabanda. Altro momento in cui l'orso assume una fortissima valenza simbolica è al momento del carnevale. Il carnevale è, così, in maniera semplificata, il momento in cui si festeggia la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Ma non è una festa così, tanto per fare un pochino di paraonda. Le popolazioni priva del pensiero di tipo scientifico, non avevano la certezza che dopo l'inverno sarebbe ritornata la primavera, cioè che il terreno sarebbe ritornato ad essere produttivo, che era la cosa appunto da cui dipendeva la loro sopravvivenza. E pertanto, utilizzando riti di tipo magico, cercavano di rappresentare quello che volevano ottenere, sempre in maniera estremamente sintetica e semplificata. La differenza fondamentale tra religione e magia sta nel fatto che nella religione, per ottenere quello che si vuole, quello che è necessario, quello che si spera, si prega un intercessore, un santo, che deve farsi poi, deve intercedere presso Dio per fare ottenere quello che l'uomo ha richiesto. Nella magia invece il comportamento è diverso, per fare in modo che la divinità dia quello di cui si ha necessità, lo si imita. Per cui nel carnevale tutti i riti di questo genere legati a una cultura di tipo agrario imitano quello che si vuole appunto ottenere. Allora, quando abbiamo il carnevale bisogna imitare la morte dell'inverno e bisogna propiziare l'arrivo della primavera. L'orso, che tradizionalmente dalla cultura popolare va in letargo l'11 novembre con San Martino e si sveglia o il 2 o il 3 febbraio con la Candelora, è proprio, diciamo, adattissimo per rappresentare l'inverno, che poi appunto viene, si risveglia e viene praticamente ucciso in maniera simbolica. Pertanto troviamo questa raffigurazione dell'orso in tanti carnevali tradizionali, dove in genere è accompagnato da un cacciatore che lo uccide, l'orso muore, poi risorge e la cosa appunto viene ripetuta. Qui ho fatto alcuni esempi, cioè questo del carnevale dell'Egertmann di Termeno, che avviene a cadenza biennale, che è un carnevale molto molto bello perché è estremamente complesso, uno dei più complessi di tutto l'arco alpino, però l'orso si trova praticamente un po' dappertutto, qui è in Piemonte, sempre con questa raffigurazione e sempre con questo significato. Qui abbiamo una maschera della Val di Fassa. Allora, questo povero orso a cui abbiamo fatto fare di tutto fino adesso, cioè abbiamo detto che è malvagio, mi sono dimenticato, è lussurioso, l'abbiamo detto, malvagio, ok, poi è goloso, cioè l'altro vizio capitale, l'accidia, e poi non so ancora che cosa, ah sì certo è prepotente, no? È iroso perché naturalmente le fa di tutti i colori, in un unico momento è considerato invece in maniera positiva, però in realtà non è l'orso, è l'orsa femmina, perché l'orsa femmina veniva ammirata proprio per la grande cura che aveva dei suoi cuccioli. E pertanto abbiamo appunto le storie di Callisto, appunto la ninfa, che viene trasformata poi in orsa maggiore, mentre suo figlio in orsa minore, qui raffigurata da Romanino, grandissimo pittore rinascimentale, nel Revolto sotto la Loza del Castello del Buon Consiglio. Allora, questa è più o meno la storia che va avanti fino al 500 e non si modifica fino al 700 sostanzialmente. Nell'800 invece succede una cosa diversa. Succede che c'è in Europa un momento di grande esplosione demografica e pertanto c'è la necessità di avere nuovi campi da coltivare per poter appunto dar da mangiare a questa popolazione aumentata, e pertanto la prima cosa che viene fatta, bisogna togliere dal bosco dove da sempre abitava quello che era l'abitatore più imbarazzante e problematico, per cui vengono istituite una serie di taglie sull'orso, che erano delle taglie estremamente interessanti perché uccidendo un orso si poteva sostanzialmente comprarsi una mucca. E poi, diciamo, il cacciatore di orsi, che comunque faceva un mestiere estremamente rischioso, perché insomma comunque confrontarsi con una bestia di questo genere non è una passeggiata, era anche riconosciuto socialmente in maniera estremamente positiva. Questa situazione porta a far sì che nel giro veramente di pochi decenni l'orso viene sterminato in tutto l'arco alpino e rimane una piccola sopravvivenza in quello che adesso è il parco ad Avello Brenta, con la storia di Life Ursus che stasera non racconteremo. Per cui l'orso viene praticamente distrutto, entra di gran moda la pelle dell'orso davanti al caminetto, e per cui insomma nelle case bene bisogna avere, cioè, mi raccomando, ecco, se compratene una, insomma, fa sempre molto chic, e il povero orso viene praticamente sterminato. Dopodiché succede una cosa molto strana, immagine, e molto particolare, così, colpo di scena qua, una cosa, perché qui si indica una cesura. Perché se da un lato l'orso viene sterminato, dall'altro sembra che l'uomo non ne possa fare a meno. E nasce, all'inizio del Novecento, il teddy bear. Nasce in un momento ben preciso, nel 1902, e negli Stati Uniti, perché il presidente Theodore Roosevelt, che era chiamato Teddy, che era un grande cacciatore, ma cui dobbiamo anche riconoscere il fatto che abbia creato il primo parco nazionale protetto, che è quello appunto di Yellowstone, a un certo punto un giorno va a caccia e non riesce a prendere proprio niente, pertanto i suoi aiutanti catturano un cucciolo d'orso, lo legano a un albero e gli dicono: puoi sparare, così ti porti almeno a casa qualcosa. Ma Roosevelt dice praticamente no, non ammazzo un orsetto in questa maniera. Questa storia, questo aneddoto viene ripreso in una vignetta del Washington Post, che qui Anna ha ripreso proprio in maniera precisa, è proprio fatta così, insomma, la vignetta, è fatto così anche l'orso, che è una specie di antecedente di Topolino. Questa storia fa molta presa sulla gente, insomma, fa molto, molta impressione, pertanto due commercianti newyorkesi che avevano un negozio di giocattoli mettono in vetrina i primi orsi di peluche. In realtà l'orso giocattolo esisteva anche precedentemente, già dal Settecento si conoscono orsi giocattoli, ma erano sempre orsi che rappresentavano l'animale, e invece questo incomincia a diventare un orso appunto umanizzato. L'anno dopo la ditta Steiff, che era appunto questa grande fabbrica di giocattoli tedesca, mette anch'essa in produzione il teddy bear. E nel giro di pochissimo si passa appunto da produzione di pochi pupazzi a, non so, già nel giro di 2 anni 2 milioni di esemplari vinti, fatti, insomma, e commercializzati. Per cui l'orso, diciamo, uscito dalla finestra, perché l'abbiamo fatto fuori, rientra praticamente, uscito dalla porta, rientra dalla finestra, diventando un compagno assolutamente imprescindibile dei nostri figli, e conoscendo una fortuna che continuerà praticamente dal Novecento fino ai giorni nostri. Non serve che io vi dica che in qualsiasi negozio di giocattoli, in qualsiasi libreria voi entrate, troverete sempre qualcosa che raffigura l'orso. Letteratura dell'infanzia, qui abbiamo un libro tedesco del 1914 dove l'orso è completamente umanizzato, proprio cioè papà con tutti i ruoli ben precisi, papà, mamma, i bambini discoli, la bambina carina, il piccolo tenuto in braccio e così via, ma questo è uno dei veramente tantissimi esempi. Lasciamo poi perdere Brancobaldo, perché appunto, siccome ci siamo cresciuti, noi li conosciamo. Yogi l'orso, ecco, però, Yogi. Yogi l'orso, Brancobaldo il cane. Scusami, Yogi, grazie. Sì, certo. Poi c'è un'altra cosa nel Novecento, che l'orso incomincia a diventare un importantissimo testimonial pubblicitario. Per cui qui abbiamo un poster fatto da Franz Lennart, che era appunto un artista che lavora a metà del Novecento e che rappresenta qui, che penso che sia straordinario questo qui, dove per pubblicizzare le settimane bianche invernali, però voi sapete benissimo che l'orso, aprite la televisione e in qualche pubblicità la trovate dentro, aveva assolutamente fatto un grandissimo successo, quella della Coca-Cola, insomma, non tantissimi anni fa, un successo praticamente planetario. E se però siamo immersi in questi orsi, tutti carini, tutti positivi, appunto, che possono dormire nel letto dei nostri bambini, contemporaneamente, qui stiamo negli anni 60 del Novecento, quando c'è un fatto di cronaca che ha a che fare con l'orso, l'orso ritorna a essere una belva feroce. Ci sono alcune copertine della Domenica del Corriere che sono molto interessanti in questo senso, perché vedete sempre questi orsi, bocca spalancata, fauci aperte, denti così, unghioni, si alza tutto peloso, eccetera, così via. Se però andate a leggere poi che cosa è successo, non è mai successo un episodio di aggressione dell'orso verso l'uomo, ma non so, questi l'hanno incontrato, no? Gli hanno gettato dei sassi, c'è scritto sotto appunto, hanno gettato dei sassi e l'orso se n'è andato, oppure non lo so, c'è di notte in macchina, i fari illuminano un orso e l'orso se ne va, però la rappresentazione comunque deve essere sempre una rappresentazione di grandissima aggressività, perché abbiamo alle spalle secoli di orso cattivo e da cui praticamente non riusciamo a liberarci. E per finire faccio vedere questa, che è una xilografia fatta da Lea Botteri, che è un'artista trentina che lavora nel Novecento, che sintetizza praticamente tutto il discorso, perché rappresenta un proverbio trentino che io non so dire, ma comunque in sostanza non ho l'accento, insomma, così giusto. Comunque, i soldi in borsa i fa ballare l'orso, l'orsa e anche l'orsa. Ora l'orso e l'orsa non ballano certo per i soldi in borsa, mentre noi sì. Questa è un po' la conclusione. Grazie.